senza età, corteo di maschere colora i muri, è il carnevale. C'è chi danza e chi canta, siamo gli angeli, vogliamo vendetta, chérie chérie, per questo inferno. Uomo un buon animale, a cavallo di un drago, la tentazione non può far male. A Panama, a Panama, grognard et grenadier s'en fout de moi. A Panama, Panama, senza età, saremo armati, saremo l'incubo degli annoiati. C'è chi danza e chi canta, siamo gli angeli, vogliamo vendetta, chérie chérie, yeah. A Panama, a Panama, grognard et grenadier s'en fout de moi. Di ogni legge morale, a Panama.